Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Buone notizie in arrivo sulla questione degli insegnanti di sostegno. Una vera e propria emergenza esplosa prima dell'estate e da Roma si è capito che il taglio verticale per l'assistenza agli alunni diversabili era una vera e propria follia, perché avrebbe messo migliaia di famiglie in una condizione di difficoltà. Anche quest'anno, come al solito, mancano gli insegnanti. Ne sono previsti 3 e ce ne hanno mandati 2. La terza, se tutto va bene, c'è stata promessa che arriverà. E questo è per dare un aiuto in più ai nostri figli, che sono tutti quanti autistici e hanno bisogno di questo lavoro. Un piano dedicato di assunzione dedicato agli insegnanti di sostegno, che riguarderà 26.000 insegnanti, di cui 4.447 sul 2013-14, 13.342 sul 14-15 e 8.895. Con la riapertura delle scuole, naturalmente nelle famiglie italiane, di media si acuiscono alcuni problemi. Per la maggior parte delle famiglie questi problemi poi vanno via via diluendosi con il passare del tempo. Una volta stabilizzata, sia a scuola elementare, sia a scuola media, sia a scuola superiore, comunque si riprende la routine, e uno dei segni dell'avvicinarsi dell'autunno è proprio che alla fine si sistemano i ragazzi a scuola. Non è così per tutti, naturalmente. Cambia lievemente perché è un figlio con alcune problematiche, con delle disabilità che non lo rende perfettamente uguale ai suoi compagni, sia nei bisogni sia, ahimè, anche nei diritti. Dico ahimè perché questo crea un problema naturalmente di organizzazione, che è un problema in un momento di necessità di riduzione dei costi. Da qualche giorno c'è stato un fremito di soddisfazione, o perlomeno di parziale sollievo nelle tante famiglie con un ragazzo disabile, proprio per il decreto legge presentato dal ministro Carrozza, di cui abbiamo parlato in questa, si è sentito accennare in questa copertina. Ma questo ha nell'attualità, nell'immediato, in questa mattina in cui molti accompagneranno a scuola un ragazzo con delle disabilità, ha cambiato qualcosa, sta cambiando qualcosa, allevia in qualche maniera il carico di angoscia superiore che ha un genitore con un ragazzo disabile? Sì, perché da un certo punto di vista sulla carta siamo un paese avanzatissimo, in cui la necessità e il diritto di inclusione sembra sacrosanto e sembra sancito, perlomeno in forma scritta, in forma teorica. Poi quando uno si cala nella realtà, arriva questo bisogno, questo desiderio, questa sorta di figura quasi irreale e mitica dell'insegnante di sostegno, che deve sempre arrivare. C'è sempre qualcuno che vi dice: arriverà l'insegnante di sostegno, ci sarà l'insegnante di sostegno. Una volta arrivato l'insegnante di sostegno, inizia la negoziazione sulle ore di sostegno. Sì, perché un sostegno ha un'efficacia se ha un numero sufficiente di ore per occuparsi di quel ragazzo. Ma poi c'è un altro problema: se voi sentite l'insegnante di sostegno, vi dirà: sì, ma l'onere che svolgo di occuparmi i ragazzi con particolari bisogni e con particolari necessità di mediazione rispetto al programma scolastico, devo dividerlo anche con l'insegnante curricolare, con l'insegnante di ruolo a tutti gli effetti. Ma l'insegnante ha naturalmente la necessità di fare il suo programma, di svolgere il suo programma, e molto difficilmente si prenderà anche onere di quel ragazzo che ha delle difficoltà di marcia rispetto all'andamento degli altri ragazzi. Cosa accade? Accade che nella migliore delle occasioni tutto è affidato alla buona volontà, allo spirito di iniziativa, a volte anche all'eroismo individuale delle persone che in situazioni di grande disagio riescono a fare miracoli. Altre volte, ahimè, lentamente una bellissima legge, un bellissimo principio teorico va per necessità scemando, e il ragazzo con dei problemi sarà sì incluso sulla carta, ma nella realtà sarà recluso in un corridoio, in un'auletta cosiddetta di sostegno. Insomma, avrà a tutti gli effetti, in forma apparentemente meno lesiva per la sua dignità, un trattamento da ragazzo diverso. 800240024, è questo l'argomento di cui voglio questa mattina discutere con gli ascoltatori, che sono molto sensibili a questo tipo di problematica. Lo faccio perché direttamente e consapevolmente interessato a questo problema e sollecitato da molti ascoltatori che in queste mattine sono trovati di fronte alla brutta notizia che il sostegno non c'è o non è sufficiente. Io ho la laurea in scienze della formazione primaria, la specializzazione per il sostegno. Sono 7 anni che lavoro come precario. Anch'io ho 2 lauree, diciamo che la situazione è un po' sempre peggiore. mi piace fare l'insegnante di sostegno, mi trovo bene con, insomma, con bambini disabili. In Italia sembra che l'istruzione non interessi perché si taglia e basta. Io sono laureata in scienze della formazione primaria, però purtroppo non sono inserita nelle graduatorie perché un decreto ministeriale non me l'ha permesso. Purtroppo non sono l'unica in Italia, siamo in 20.000. Questo era un blob di insegnanti di sostegno in cerca di una collocazione. Vengono da varie esperienze, non è che l'insegnante di sostegno è una persona che ha dedicato la sua vita di formazione, di studi ad occuparsi di ragazzi disabili. Possono essere insegnanti di qualsiasi disciplina scolastica, però a un certo punto del loro curriculum, del loro corso professionale, necessariamente, vuoi per vocazione, vuoi per scelta, vuoi per necessità, entrano nell'area degli insegnanti di sostegno. E cosa accade quindi poi nella realtà, nella concretezza dei fatti? Avvocato Salvatore Nocera, buongiorno. Buongiorno a lei. L'avvocato Nocera è vicepresidente della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Vogliamo riassumere velocemente la situazione, perlomeno sulla carta in Italia, come dovrebbe essere riguardo alla presenza di alunni disabili nelle scuole? Qual è stato il grande passo avanti nella civilizzazione, almeno teorica, del concetto di inclusione? Direi che a questo ha contribuito non solo la legislazione, ma anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che hanno affermato il diritto pieno degli alunni con disabilità a una buona qualità di inclusione nelle classi comuni. La normativa è chiara, c'è un percorso da fare, dalla certificazione che i genitori debbono presentare al momento dell'iscrizione, da cui risulti lo stato di gravità o meno della disabilità, sino alla formulazione di una diagnosi funzionale delle ASL che indichi quali sono i bisogni educativi dell'alunno, alla formulazione poi di un percorso didattico personalizzato, il cosiddetto PEI, che viene predisposto insieme dai docenti della classe, non solo dall'insegnante di sostegno, dalla famiglia e dagli operatori sociosanitari che seguono il caso. Quindi diciamo è perfetta per come è stata scritta l'alunno. Per come è stata scritta e per come è stata programmata anche nella tempistica, si tratta di programmare l'anno prima per l'anno dopo, cioè a partire dal momento dell'iscrizione, che è a gennaio, al momento in cui il ragazzino entra a scuola, che è settembre, ci dovrebbe essere la possibilità organizzativa di garantire tutte le risorse indicate nel piano educativo. Però sa meglio di me, lei avvocato, che però ancora allo stato attuale la maggior parte delle famiglie sente dire ancora non sappiamo se ci daranno il sostegno, quanti ce ne daranno, chi sarà il sostegno, adesso vediamo. Nella prassi poi in realtà accade questo, molto difficile sapere dalla stagione precedente chi sarà l'insegnante di sostegno per mettere a punto questa sorta di fantastico piano. Purtroppo questo è vero proprio perché ci sono ritardi nella formulazione delle graduatorie e quindi poi nelle nomine, ma ci sono anche discontinuità paurose perché, essendo la maggioranza, circa un terzo dei docenti di sostegno precari, questi cambiano di anno in anno. Di qui l'opportunità del provvedimento del Ministro di mettere in ruolo circa 26-27 mila docenti di sostegno. Che faranno il sostegno tutta la vita, questa mi sembra aver capito, non saranno prestati al sostegno. Lì intanto il fatto che siano immessi in ruolo non significa che ci siano 27 mila posti in più di assunzioni, sono assunzioni che da precarie divengono stabili, diventano di ruolo, e questi garantiscono continuità didattica e garantiscono anche maggiore serenità e quindi maggiore professionalità per i docenti che però lavorano. Si parla del 2015, diciamo che un ragazzo se ci sono già dei problemi ha davanti un buco di un paio d'anni, e mi sembra che per un ragazzo disabile nella scuola primaria significa una lacuna irrecuperabile nella sua formazione. Purtroppo fino ad oggi siamo andati avanti con circa 35.000 insegnanti di sostegno precari che cambiano di anno in anno. Questa è la prima volta dopo 15 anni circa in cui si ha l'immissione in ruolo di un numero così alto di docenti, che quindi garantiranno quasi completamente la continuità. Fermiamoci un attimo, Sonia, prima ascoltatrice, io ci terrei, al di là delle persone che come ospiti mi spiegheranno lo stato dei fatti, quella che poi è la prassi quotidiana, giorno per giorno, in queste mattine in cui si va a scuola con il ragazzo per la mano, sperando di trovare il sostegno, di trovare il supporto, di trovare il pulmino che lo accompagna, lo riporta, di trovare qualcosa o qualcuno che presti attenzione al problema. Sonia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamo da Brescia, sono 10 anni che lavoro nel mondo della scuola e direi che il problema principale degli insegnanti di sostegno è che la maggior parte non sono realmente insegnanti di sostegno, ma si ripiegano in questo ruolo perché non trovano l'insegnamento nella propria materia. Quindi dico che bisognerebbe iniziare a capire che l'insegnante di sostegno deve essere anche una cosa di vocazione e di passione, altrimenti ci si ritrova con insegnanti che tengono per mano tutto il giorno i bambini ma non sono costruttivi per loro, quindi non li portano da nessuno. Secondo lei, Sonia, per la sua esperienza, quale dovrebbe essere la formazione per un insegnante di sostegno? Prima cosa è una formazione sui libri, ma anche sul campo, perché ci sono insegnanti di sostegno che hanno paura ad affrontare ragazzi con certe patologie, magari anche psichiche. E se un insegnante di sostegno inizia a lavorare con la paura, non potrà mai fare nulla per quel bambino. La paura non è proprio il concetto che dovrebbe ispirare un educatore, perché se il soggetto con problemi psichici avverte la paura, si entra in un loop di atteggiamenti aggressivi da cui non si esce più. Esattamente, quindi più che altro, più che guardare i test della materia, se un insegnante ha imparato la lezioncina eccetera, bisogna anche valutare se quell'insegnante è realmente in grado. Cioè Sonia dice gente che si è fatta le ossa sul campo e sa esattamente la materia che va a trattare. Patrizia. Sì, ciao. Eccomi. Niente, io volevo raccontare un po' la storia del mio figlio. Mio figlio stamattina ha iniziato la prima superiore. Mio figlio è un ragazzo disabile, lui guida una sedia a rotelle a motore e logicamente ha sostegno, perché oltre ad avere problemi agli arti inferiori ha problemi anche agli arti superiori, e anche se cognitivamente lui finora ha seguito una programmazione ad obiettivi minimi, però ha seguito la programmazione della classe, diciamo. E le ore di sostegno quest'anno su 32 sono 9. Premettendo che lui non riesce neanche a aprirsi l'astuccio per tirar fuori la biro. E nelle altre ore cosa fa suo allora, figlio? Allora, le altre ore, lui ha 9 ore di sostegno di insegnante vero e proprio, poi gli hanno dato 15 ore di educatore. 10? 15 ore. L'ECI però è un supporto, dovrebbe occuparsi. Sì, però adesso io quest'anno spero vivamente di trovarmi bene come mi sono trovata negli anni scorsi con l'educatrice che aveva, che era un'educatrice ma gli faceva da insegnante a tutti gli effetti. Quindi lei conferma quello che dicevo prima, si gioca sulla personale disponibilità del soggetto. Un EC, cioè un educatore che esatto, ha un senso di coscienza, sostituisce un insegnante di sostegno, quando in realtà dovrebbe portare il ragazzo e assolvere ai problemi più pratici. Però c'è anche da dire che non tutti gli educatori sono in grado di affrontare un programma scolastico, perché non è richiesto. Beh, non è il loro mestiere. Non è il loro mestiere, poi sta nella buona volontà dell'educatore e nell'esperienza che ha l'educatore, giustamente. Quindi lei, se volesse fare, diciamo, un bilancio della sua situazione, è mediamente soddisfatta, mediamente insoddisfatta, fortemente critica? Allora, se devo guardare la mia esperienza, posso dire che sono soddisfatta, perché ho trovato persone che si aiutavano a vicenda a livello di sostegno e di educatore. Quindi nella grande lotteria le è andata bene, quindi si può dire soddisfatto. C'è un altro problema che secondo me è fondamentale in questa situazione: non c'è collaborazione insegnante di classe, insegnante di sostegno. Questa non c'è mai stata, e sarà molto difficile abbattere questa barriera. È una vecchia storia. Allora sentiamo una rappresentante del CIS, Coordinamento Italiano Insegnanti Sostegno, la professoressa Evelina Chiocca. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. L'ho fatta ascoltare in silenzio alle prime telefonate, così lei avrà Se non altro penso alla conferma di una realtà che già ben conosce. Il grande problema, il grande divario, che l'insegnante di sostegno, già nelle difficoltà che ha per affrontare un numero di ore limitato, un numero eccessivo di ragazzi a occuparsi, non trova collaborazione da parte dell'insegnante di ruolo, che dovrebbe anche lei occuparsi di quella realtà più difficoltosa e più problematica. Invece decido di andare avanti con il mio programma, e quindi occupati te del disabile perché tu sei il sostegno. Diciamo che c'è un discorso culturale e di formazione che è in carico agli insegnanti, che mette un po' in crisi quello che è il sistema di integrazione. L'idea che l'integrazione sia a carico di una persona, e quindi questa delega che viene data al docente, nasce anche da un'errata interpretazione di quella che è l'integrazione scolastica. Ora, l'integrazione scolastica avviene nella misura in cui tutti si mettono in gioco. Pensare a distanza di 40 anni che l'alunno con disabilità è qualcosa, e dico apposta qualcosa, che appartiene ad un insegnante e non a tutti gli insegnanti che operano in una classe, vuol dire non aver fatto quel percorso che invece era richiesto. Di fatto è una scuola speciale inserita come fosse un appendice della scuola pubblica. Ha fatto, sì, un disegno. Il fatto è che gli insegnanti dovrebbero entrare in classe pensando di avere 19 alunni piuttosto che 20 alunni, e non 18 più 1 o 19 più 1. Cioè è questo l'errore di fondo, che parte da un discorso di formazione, dall'idea che l'alunno con disabilità appartiene ad altri e non è una mia responsabilità. Su questo anche le linee guida che sono state emanate nel 2009 per richiamare per l'ennesima volta questo aspetto, c'è appunto quell'attenzione per cui l'alunno con disabilità è di pertinenza di tutti gli insegnanti e tutti devono farsene carico. Pensare che soltanto una figura professionale è deputata a questo vuol dire fallire tutto quello che è il percorso. Lei sa poi, professoressa, a fronte genitori le posso raccontare la cosa che accade se una mattina l'insegnante di sostegno ha la febbre, come può accadere, ti chiama l'insegnante, dice: guarda, non c'è il sostegno, per favore vieni a riprendere il figlio perché io non me ne posso occupare. Questo è il lato negativo. Dario Ianis, buongiorno. Buongiorno. Professor Dario Ianis è un docente di ordinario di pedagogia e didattica speciale all'Università di Bolzano, ma è molto importante perché ha fondato il Centro Studi Erickson di Trento, che chi ha un problema di disabilità sa bene che è il centro che cura le più importanti collane e guide per persone con disabilità, guide, materiali, autore di vari articoli, libri, ha scritto su varie riviste, insomma è un grosso esperto. Ho letto un suo articolo dove in effetti con grande cautela e grande intelligenza però si pone il problema a monte di tutto quello che stiamo dicendo. È da un punto di vista concreto di effettiva efficacia per le famiglie e per i ragazzi, è meglio mantenere in piedi un concetto astratto e teorico che però nella realtà non funziona, cominciare a ripensare quelli che possono essere dei correttivi concreti perché il sistema funzioni. Ma guardi, lei ha fatto benissimo a partire dalla quotidianità, dicendo che insomma, la situazione dell'integrazione in Italia, che sulla carta sembra perfetta, poi nella realtà non lo è. Non lo è per i motivi e le situazioni che abbiamo visto. Però questa, chiamiamola, degenerazione strisciante un po', no? Che nelle aule porta sempre più meccanismi di delega, porta sempre più meccanismi di aula di sostegno. E quando c'è l'aula di sostegno io vedo già come un'idea di primo passo di scuola speciale all'interno della scuola comune. E anche le do un dato su una ricerca nostra che abbiamo fatto, anzi due ricerche in parallelo, ci danno un 25% circa di insegnanti curricolari che sarebbero favorevoli, diciamo, alla riapertura, chiamiamola così, di classi speciali. Per loro sono rotture di palle in meno, questo è chiaro, è logico. Però questa analisi critica che è condivisa un po' da tutti, sia nel vissuto, diciamo, dei familiari che poi nell'analisi più tecnica, però bisogna cercare di interpretarla in qualche maniera, cioè cos'è quello che non funziona, perché e qui il discorso si fa più complesso, perché da un lato c'è la gran maggioranza di persone che dicono la nostra legislazione è perfetta, basterebbe farla funzionare bene, basterebbe che chi ha i compiti, diciamo, dal curricolare al sostegno, al preside, all'ufficio scolastico provinciale, lavora lavorassero bene, lavorassero meglio. Si prendono carico per la loro parte del problema e forse funzionerebbe meglio. Guardi, professore, ci fermiamo solo un istante, non volevo interromperla su un punto fondamentale e diamo la linea all'informazione della borsa. Riprendiamo con lei per capire in effetti se un correttivo che non vada contro a quella che è il portato ideologico importante della legge, lo statu quo, potrebbe già cominciare a sancire quello che è già uno statu quo e creare una situazione di maggior felicità, minor disagio per i ragazzi. Melog, la realtà condivisa. 800240024, oggi parliamo del problema del sostegno nelle scuole alla luce del nuovo decreto del ministro Maria Chiara Carrozza, il decreto legge che presuppone un'immissione di un numero di unità in organico considerevole di insegnanti di sostegno, però i ragazzi non è che possono essere congelati in attesa che arrivino, e quindi queste mattine nelle scuole italiane si svolge un quadro di difficoltà, di disagi di cui siamo tutti abituati negli ultimi anni. È arrivata l'insegnante, aspettiamolo, dovranno assegnare, intanto cosa facciamo? Lo mettiamo nella saletta, intanto se ne occupa l'educatore, intanto vediamo, proviamo a farlo stare un po' in classe, ma in classe dopo un po' disturba, gli altri devono comunque svolgere il loro quotidiano programma di insegnamento scolastico, quindi andiamo a fargli fare una passeggiatina, magari se lo prende un po' il bidello, vediamo se c'è la palestra, in fondo chiamiamo casa se possono venirlo a prendere un po' di tempo prima, e questo sembra che ancora sia una prassi difficilmente eliminabile, anche perché abbiamo sulla carta un progetto fantastico di integrazione, di programmi mirati alle esigenze del ragazzo concordati fra scuola e famiglia, educatori, però di fatto poi la realtà diventa questa. Mi ero interrotto con il professor Dario Janes, che insegna pedagogia didattica all'Università di Bolzano, ma anche una casa editrice specializzata in pubblicazioni proprio di sostegno, di integrazione e di abilitazione per persone disabili. Allora, professor Janes, ci eravamo interrotti dicendo che in realtà ci sono giustamente le persone non vogliono nemmeno sentir parlare di bisogni educativi speciali oltre diciamo la quotidiana integrazione, però i bisogni integrativi speciali esistono o non esistono e come vengono in qualche maniera supportati o esauditi? Ma stavamo ragionando sul punto che l'insoddisfazione diciamo sulla situazione reale quotidiana è abbastanza accertata. Quello su cui divergono le opinioni è proprio sul tipo di interpretazione da dare alle cause di questo problema. Anche perché la vera paura lo sa qual è, la sa meglio di me, professore, mi stanno arrivando SMS e non vorremmo tornare certo alle classi differenziate, ci si va indietro come gamberi, nessuno vuol tornare all'idea dei ghetti per ragazzi disabili, ma bisognerà trovare una forma intermedia in cui i bisogni di queste persone nel tempo giusto, non è che possono aspettare 3 anni, un ragazzo in cui magari in questi anni si gioca delle abilità che in realtà non potrebbe recuperare mai più. Assolutamente, ma il punto centrale secondo me di tutta l'analisi è questo. Sicuramente ci sono delle inefficienze nell'amministrazione e nel lavoro concreto delle persone, perché lavorando in una complessità come quella della scuola è chiaro che dobbiamo mettere in conto delle sacche diciamo di inefficienza e ci sta questo, certo. E questo ci sta. Però io non vorrei che ci fossero nella situazione italiana dei meccanismi distorsivi che strutturalmente ti portano a questa forma di degenerazione. E vediamo se ne individuiamo qualcuno, ci dica qualcuno in concreto. Uno su cui tanto si discute è come adesso funziona l'insegnante di sostegno. Secondo me l'insegnante di sostegno, così come adesso, è la porta aperta a quei meccanismi di delega, di responsabilizzazione di curricolari di cui ampiamente tutti quanti prima hanno detto. Cioè finché ci saranno, secondo me, 101.000 persone che hanno su di sé questa etichetta di datemi la delega e sono io pronto a prenderla, cioè dire, io credo che avremo sempre un meccanismo di responsabilizzazione dei curricolari e sempre avremo le volette di sostegno. Mi posso fare una domanda, professore, perché non riesco a darmi io la risposta. Ma perché non si è pensato a una figura come c'è l'insegnante di geografia, di storia, di filosofia e religione? delle persone che studiano per fare l'insegnante di sostegno, sono degli specializzati in disabilità e che lavorano nelle scuole con quel mandato. Non avremo più, anzi, specializzati nelle varie disabilità, perché non è la stessa cosa assistere un ragazzo tetraplegico o un ragazzo autistico. Sono campi totalmente diversi. Allora, io sono convinto di una cosa, che noi dobbiamo far evolvere la situazione attuale degli insegnanti di sostegno, dobbiamo farla evolvere, non abolirli, licenziarli, questo è folle, anzi il governo, come si vede, va in direzione assolutamente opposta, ma far evolvere il ruolo, perché non è possibile continuare a tenere un ruolo così ambiguo, per cui è con titolare di classe, però in realtà è nominato solo su una diagnosi, cioè una situazione che nella sua ambiguità ti apre proprio la porta dei meccanismi di degenerazione. Sentiamo un attimo Adriana, insegnante di sostegno da 30 anni, cosa può dire, perché ha un'esperienza trentennale, quindi immagino che tutti i problemi della categoria l'avrà ben visibili. Adriana, buongiorno. Buongiorno, sì, sono insegnante di primaria dall'84 e ho fatto anche con il professor Janez, è stato mio docente a Udine, a Gorizia, anzi. Cosa ho, viva voce Adriana, la sento male? Sono in macchina. Però dovrebbe o fermarsi, col viva voce la sentiamo malissimo. Andiamo avanti. Sì, pronto? Ecco, solo un secondo. Aspetti. Sì, adesso aspettiamo Adriana. Riesce a sentirmi? Sì, sì, dai, parli, facciamo il possibile. Adriana? Adesso Adriana è morta, vediamo se la recuperiamo, ho chiesto troppo, ma con il viva voce a me è terrificante. Lara? Buongiorno. Sì, mentre recuperiamo Adriana, che era importante. Sì, Lara, buongiorno. Buongiorno, io sono una mamma di due bambini autistici in terza elementare. I miei figli hanno avuto la diagnosi a 20 mesi, quindi io, da quando sono alla materna, che hanno il sostegno e l'educatore. Io posso però portare un'esperienza positiva. Quando la legge viene veramente rispettata, le cose vanno da Dio. La legge è perfetta, chiaro, ma la legge l'abbiamo esatto. Detto. Io credo di aver avuto un gran culo, non so se sì. Però questa è la verità, e anche confrontandomi con altri genitori mi rendo conto di essere veramente fortunata. In che città lei vive? Io abito a Gavirate, in provincia di Varese, e i miei figli vanno dalla scuola materna, prima in sempre in piccole scuole, ho scelto delle frazioni, e quello che è stato detto sugli insegnanti curricolari è fondamentale. Io ho avuto insegnanti curricolari che si sono prese carico dei miei figli, e insieme all'insegnante di sostegno, che ha sostegno alla classe, non è a sostegno dei miei figli, anzi è una risorsa. E racconto solo un aneddoto: quando hanno finito la scuola materna, i genitori della classe hanno detto: mannaggia, vanno via Riccardo ed Alessandro, avremo un insegnante in meno. Beh, sa Lara, la legge, siccome è ben scritta, è fatta bene, e questo l'abbiamo detto, dà valore a quello che è il reale valore di una persona diversa in una classe di ragazzi omogenei, è un'aggiunta in più. Lei dà l'esempio e ci conferma il fatto che, se ben applicata, sarebbe una legge fantastica, darebbe felicità a tutti. Probabilmente la sua è un piccolo centro in cui tutti si conoscono, in cui c'è una sorta di comunità che sostiene anche il sostegno, la scuola, l'insegnante, e quindi funziona. In una città dove le realtà sono un pochino più complesse, l'anonimato, ahimè, non gioca a favore di questa realtà. Professoressa Chioccia, che rappresenta le insegnanti sostegno, visto la sua collega non riusciamo a recuperarla, rispetto a quello che ha detto il professor Janez. Allora, io credo che bisogna veramente andare a quello che è il nodo. Lei ha fatto dei richiami importanti sul fatto che il ragazzino viene portato fuori dalla classe, e sembra che questa insegnante quasi non sia un'insegnante, perché c'è questo scollamento fra i docenti che sono incaricati sulle discipline e l'insegnante che viene invece incaricato sul posto di sostegno. Ora, l'integrazione è in carico a tutti gli insegnanti della classe, o si entra in questa ottica, che deve partire anche da percorsi formativi coerenti rispetto a questo, o altrimenti possiamo continuare a girarci intorno. Non possiamo pensare che dell'alunno con disabilità si occupi una sola persona, se ne devono occupare tutti gli insegnanti, perché a loro sono affidati gli alunni. Però con professoressa Chioccia, lei mi dà ragione che quando l'insegnante di sostegno per qualunque ragione non ha possibilità concreta e materiale di occuparsi del ragazzo, l'insegnante curricolare avverte la famiglia: venitevelo a prendere perché io non posso certo occuparmi. Ma questo non deve farlo. Però accade. La scuola non può convocare la famiglia per portare a casa il ragazzo. Ma a me succede tantissime volte. Non deve andare a scuola a prendere il ragazzo. Gli insegnanti della disciplina devono occuparsi dell'alunno con disabilità perché è un loro alunno, è una loro responsabilità, cioè non può esistere. Sì, ma se questo non accade, la famiglia mica può andare con i carabinieri a scuola a dire occupatevene, nessuno vorrebbe una situazione del genere. Deve pure esistere un meccanismo. Non può perpetuarci una condizione di questo tipo. Allora dove bisogna operare? Bisogna andare a lavorare sulla formazione del personale docente, occuparsi di chi si forma, di chi forma il personale docente. Cioè l'Italia ha fatto una scelta che è quella dell'integrazione e poi mette in classe degli insegnanti che hanno delle competenze e insegnanti che hanno altre competenze. Se l'integrazione non entra nel piano formativo di tutti i docenti, proprio come formazione cardine, noi continueremo a parlarci, fra 10 anni saremo ancora qui a parlarci. Ahimè, temo che sia così. Avvocato Nocera della Federazione Italiana al superamento dell'handicap, però alla fine arriviamo a un punto nodale. Se ci fermiamo sulle posizioni, dire come dovrebbe essere, gli anni passano, i ragazzi diventano uomini e nessuno sarà occupato di loro. Quale potrebbe essere una soluzione concreta? Una maggior qualificazione, un percorso professionale preciso. L'insegnante di sostegno è un educatore specializzato nella disabilità. Questo potrebbe essere? Noi come FISH stiamo presentando una proposta di legge elaborata già da un paio di anni in cui prevediamo due cose. Prima, una formazione obbligatoria iniziale, e questo richiede tempo, ma anche in servizio, e questo si può fare già da domani, sulle didattiche speciali a cui tutti i docenti di classe dovrebbero essere orientati. Questo è fondamentale per evitare la delega al solo sostegno e per evitare le cause sul sostegno che l'amministrazione perde tutte. Seconda cosa, stiamo puntando ad avere un apposito ruolo di sostegno in modo tale che chi sceglie questa carriera lo faccia a ragion veduta, con motivazione seria e non solo, e talora è capitato, per avere un posto di sostegno dal quale dopo un certo numero di anni passare in una sede comune più vicina a casa e così via. Mi sembra questo, quello che dice lei è sacrosanto e non possono che darle ragione tutte le persone che sanno esattamente che è così il problema, che funziona così. L'insegnante di sostegno deve essere un insegnante a tempo che si occupa per un certo periodo della sua vita di ragazzi disabili. Un ragazzo disabile è una responsabilità grossa, è una responsabilità che chiede studio continuo, aggiornamento continuo, dedizione e attitudine. Se l'insegnante di sostegno fosse uno specializzato in sostegno, lo facesse per tutta la sua vita professionale, già secondo me sarebbe un passo avanti. A tra un istante, dopo il traffico. Melog, la realtà condivisa. 800240024, stiamo ribadendo argomenti che chi ha un problema in famiglia di disabilità conosce benissimo, però vale la pena di sentirli riportati all'attenzione da persone che dedicano la loro vita appunto all'approfondimento e alla possibile soluzione del problema dell'applicazione di una legge perfetta che c'è in Italia sull'integrazione scolastica, sull'inclusione. L'avvocato Salvatore Nocera mi ha detto che sta presentando come Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap una proposta di legge che preveda una reale, concreta, efficace specializzazione dell'insegnante di sostegno, che non sia più un insegnante di filosofia, di storia, di matematica, di qualunque argomento, che di qualunque materia e disciplina, che per un certo periodo della sua vita, per ottenere magari un avvicinamento a una sede più propria per lei o avere comunque possibilità di lavorare, si improvvisi insegnante di sostegno. Io sono dell'idea che il sostegno, le attività di abilitazione di un disabile non sono attività che si improvvisano, richiedono studio, approfondimento, cioè un approccio scientifico oltre che una grande vocazione personale. Però mentre mandavamo le informazioni del traffico abbiamo avuto una telefonata, quindi non possiamo fare a meno di dare voce perché ci ha chiamato in persona Tata Lucia. Tata Lucia, buongiorno, la chiamo così buongiorno, perché penso che ormai certo, questo sia il suo certo, marchio. Ormai è così. Dunque, io volevo dire questo. Ma perché ci ha chiamato Tata Lucia? Io vi ho chiamato perché io personalmente e privatamente mi sono fatta 5 o 6 anni d'estate in questo centro in California dove si fanno le terapie comportamentali e funziona così per tutti i bambini che hanno problemi comportamentali tipo appunto l'autismo, il disturbo dell'attenzione, cioè, altri disturbi eccetera. La cosa funziona così: il bambino viene ovviamente diagnosticato, dopodiché l'università gestisce una scuola elementare dove si ha un ordinamento didattico identico a quella della scuola normale, chiamiamo tra virgolette, però viene applicata su tutta la scuola la terapia comportamentale. I bambini che frequentano questa scuola ci stanno 6 mesi, un anno, tutto questo periodo, fino a quando hanno acquisito delle capacità comportamentali, ed è una scuola bellissima, serena, tranquilla, eccetera. Poi ritornano nella loro classe, quella che hanno abbandonato prima dei 6 mesi dell'anno, eccetera. Ma lei lo vede applicabile, Tata Lucia? Lei lo so che Cosmopolita è una formazione globale, lei si occupa più dei genitori che dei figli, quindi figuriamoci quanto ne sa lei. Però, ma la vede applicabile alla nostra realtà, in cui sente che gli insegnanti di sostegno in realtà attraversano l'Italia molte volte per fare teorie di sostegno e poi ritornano indietro in treno pur di sperare di ottenere quella sede di lavoro? Poi purtroppo da noi, io quello che adoro degli Stati Uniti è il pragmatismo. Viviamo in Italia, che dobbiamo fare? Esatto, viviamo in Italia, però diciamo questa educazione degli insegnanti a questo tipo di terapie comportamentali dovrebbe essere assolutamente parte del loro curriculum. Tata Lucia, perché non è mai venuto in mente, visto così ferrata, di fare uno spin-off, un Tata Lucia dedicata proprio ai ragazzi disabili? Guardi che il problema delle famiglie è molto forte, molte volte la stessa famiglia diventa un ostacolo anche per l'applicazione di una possibile didattica. Siamo in Italia, dunque io nasco come insegnante elementare, ho insegnato quasi 35 anni, però non posso insegnare nelle scuole statali, che sarebbe la mia più grande passione, che mi diano una classe che io la seguo da sola per 5 anni insegnando tutto. Non posso farlo perché, siccome non ho mai fatto i concorsi, adesso non sono manco laureata, però posso fare i corsi per gli insegnanti proprio sulle terapie comportamentali, che sono il mio pallino. Ci ho scritto anche un libro, Fate i compiti, sulla scuola. Sì, ma Tata Lucia ormai ha una funzione taumaturgica, quindi basterebbe dire in questa scuola c'è Tata Lucia, la gente verrebbe a far la fila. Se io fossi ricca mi metto in piedi la mia scuola. Beh, lei è ricca, è diventata, ha fatto televisione da tanti anni, adesso fa anche la cucina, caro. Tata Lucia in cucina, una cosa fantastica. Non sono Belen, capito? Vabbè, sarà stata in passato. Una persona assolutamente normale che ha la passione della persona umana. Grazie Tata Lucia, non è detto che non la richiamiamo questa volta per saperne di più dalla sua attenzione verso questi problemi. Tania, educatrice, non è Tata Lucia, però si occupa anche lei di ragazzi. Sì, no, buongiorno. Io volevo soltanto dire che nei miei tirocini che ho svolto, io ho all'interno della scuola elementare specialmente, affiancata appunto l'assistente di sostegno, che io... veramente impreparate, cioè persone veramente impreparate, cioè gente, come diceva lei prima, che hanno fatto domanda per fare il sostegno perché dovevano avere questa perché di là non c'era possibilità di entrare, di ruolo di là non si entrava. Quindi per lei fare come minore. Educatrice diventa anche il sostegno del sostegno, praticamente, come può spesso sì, accadere. Praticamente sì, perché io avevo questo ragazzo in classe che aveva insomma era stato diagnosticato con un ritardo cognitivo e questa persona che si sedeva in classe lo guardava, ogni tanto gli dava un fogliolino per disegnare, certo. La maestra andava avanti e questo bambino completamente da solo a se stesso questo, ogni tanto gli davano una fotocopia con un esercizio, dicevano loro, sintetizzato, e io dicevo, ma su che basi lo sintetizzo? Perché io, avendo fatto degli studi di scienze della formazione come educatore professionale, noi la didattica speciale, insomma, ci fa 3 esami grossi su quel discorso, dico, ma come fanno le persone a non essere formate, a non sapere cos'è l'autismo, a non sapere come si interviene? Allora, fermiamoci Tania, per questo è un argomento su cui vorrò ritornare, e me ormai mi sono preso questa incombenza. Mi sembra che oggi abbiamo sfiorato soltanto il problema, abbiamo messo però in luce quelli che sono i punti fondamentali. Tania, che ha studiato, però è un'educatrice, ci mostra uno dei tanti problemi. Ci torneremo, grazie, a domani. Grazie a Valerio Rocchetti, Fabrizio Intonti.